Progress, quando la tecnologia diventa per tutti. Veicolo ASV in posizione iniziale di avvicinamento. 4, 3, 2, 1, ok, inizio avvicinamento. ASV in fase finale di aggancio. 2 secondi di spinta al via fra 3 secondi. 3, 2, 1, ok, motori. ASV in fase finale, attenzione. 3, 2, 1. Ok, veicolo agganciato a stazione spaziale. Avete appena ascoltato la simulazione di un aggancio alla stazione spaziale di un veicolo ASV, Advanced Space Vehicle. Fa tutto da solo. Un sistema di sensori controlla costantemente distanze e movimenti. Da queste tecnologie con grandi costi siamo arrivati a dispositivi montati sulle automobili. Oggi nelle nostre città iniziamo a vedere alcuni modelli in grado di parcheggiare da soli. Questa tecnologia, che ci porta ad un semplice parcheggio tra due auto in una strada cittadina, ha mosso i primi passi con le sonde in azione su Marte. Dalla ricerca spaziale sono arrivate innumerevoli applicazioni per la vita qui sulla Terra. Molti tessuti tecnici, per esempio il velcro, sperimentati nelle attività extraveicolari, oppure materiali come la ceramica impiegata nell'odontoiatria. E forse non sapete che un'apparecchiatura come la TAC oggi usa strumenti sperimentati nello spazio per studiare i raggi cosmici. Progress vi aspetta domani alle 18:30 su Radio 24, in collaborazione con Ford.